Giornale radio del Friuli Venezia Giulia. Sarà fatta esplodere domenica la bomba di 250 kg della Seconda Guerra Mondiale trovata nei pressi della stazione di Nova Gorica. Saranno evacuate le case nel raggio di 600 metri, 2000 le persone coinvolte. Emergenza ratti nella zona della stazione di Trieste, sono tanti e aggressivi. La situazione è critica, al punto che gli addetti di un'impresa che si occupa di pulire i treni da lunedì si rifiuteranno di farlo la notte. Approvato dal ministro Urso un accordo da 53 milioni e mezzo di euro per ridurre l'impatto ambientale delle ferriere di Osoppo e Verona. Il ministero metterà in campo 20 milioni di euro di agevolazioni, la regione 570 mila. L'apertura di Forza Italia, le perplessità di Fedriga, il dibattito sul diritto di cittadinanza si accende anche nel centrodestra regionale, i consiglieri azzurri sulle stesse posizioni del ministro Tajani. Traffico, domani sarà l'ultimo sabato da bollino nero con probabili lunghe code in ingresso alla barriera di Trieste-Lisert per il rientro dalle vacanze in prossimità dell'uscita ai caselli delle località balneari. Sentiremo anche le previsioni meteo dell'esperto dell'ARPA, nel weekend ancora sole caldo, ma da lunedì le temperature saranno mitigate dal vento di bora, soprattutto sulla costa. Le Paralimpiadi, tra gli atleti in partenza per Parigi il triestino Marco Frank, 44 anni, del gruppo sportivo Francesco Ravalico di canottaggio dei Vigili del Fuoco. Lo abbiamo incontrato. Le 12.31, ancora buongiorno da Alessandra Zigaina e Daniele Lettig. Questa mattina in prefettura a Gorizia si è tenuta una riunione operativa per stabilire come intervenire nella zona a cavallo del confine dove è stata rinvenuta una bomba della Seconda Guerra Mondiale. Vediamo cosa è stato deciso. Ancora una bomba nei pressi della stazione ferroviaria di Gorizia, ancora in evacuazione per permettere di svolgere nella massima sicurezza le operazioni di disinnesco o brillamento. Secondo le stime del comune di Gorizia, l'evacuazione potrebbe coinvolgere poco meno di 2000 residenti nella parte italiana, un numero maggiore rispetto a casi simili dell'ultimo anno, perché stavolta il perimetro di sicurezza è di 600 metri, 200 in più del passato. L'evacuazione avrà luogo dalle 7 alle 9 di domenica mattina. Alle 10 è previsto l'avvio delle operazioni da parte degli artificieri. La decisione è stata presa stamattina in una riunione in prefettura a Gorizia, chiesta dalle autorità slovene che ieri hanno individuato a mezzogiorno l'ordigno della Seconda Guerra Mondiale dal peso di 250 kg. La bomba è stata scoperta durante i lavori in un ex magazzino nei pressi della stazione che diventerà presto un museo del Novecento in occasione di Go 2025. Il sindaco di Gorizia, Rodolfo Ziberna, ieri aveva espresso scetticismo sulla possibilità di organizzare un'evacuazione in così poco tempo, in agosto e con il sabato in mezzo. Alla fine la prefettura di Trieste è venuta incontro alle richieste degli sloveni, che hanno bisogno di disinnescare la bomba il prima possibile, sia per ragioni di sicurezza, sia per non fermare il cantiere. La preoccupazione da parte italiana era legata a un preavviso ridotto in confronto alle precedenti occasioni. Il comune di Gorizia si è già attivato per avvisare la popolazione con avvisi della Protezione Civile, volantini ed SMS. Antonio Di Bartolomeo, TGR Friuli Venezia Giulia. Nella zona della stazione di Trieste è emergenza ratti, sono sempre più numerosi e anche aggressivi, al punto che gli addetti di una delle quattro ditte che operano sui treni hanno annunciato che da lunedì non faranno più le pulizie di notte sui convogli. Io lavoro da 39 anni, dal 1985, non ho mai visto una cosa simile di ratti qua in platea, a Lavaggio, dove facciamo le pulizie dei treni, di notte specialmente, non si può neanche camminare quasi. Non hanno paura delle persone, i ratti proliferano soprattutto nelle ore notturne, trasformando una delle aree più frequentate della città, la zona della stazione, in un luogo insicuro e degradato. I turisti scattano e condividono foto ricordo non proprio edificanti per la città. Un macchinista si è infortunato 3 giorni fa dopo essere stato attaccato da una pantegana, che però per fortuna non lo ha morso. La più grande delle quattro ditte di pulizie dei treni si rifiuta di continuare a lavorare di notte in queste condizioni. Ho fatto con la referente di contratto, Lato Trenitalia, un incontro e abbiamo definito insieme di sospendere temporaneamente le attività notturne a partire da questo lunedì e di riprogrammare le attività in tutti gli altri turni di lavoro o negli altri cantieri che fanno parte del Lotto Trenitalia. La direzione regionale di Trenitalia ha già segnalato la questione ad Asugi e alla prefettura 2 mesi fa, sollecitando una bonifica completa che includa anche la zona del Silos. Il Partito Democratico di Trieste chiede al Comune di intervenire. L'assessore Michele Babuder fa sapere che non tarderà a segnalare il problema al gestore della rete fognaria Acegas APS AMGA, gestore che però, secondo l'assessora comunale Sandra Savino, non ha un ruolo nella vicenda. Neanche Asugi se ne occupa perché, dice, la deratizzazione spetta al comune. Sandra Savino, assessore ai servizi generali del comune. Il comune si sta occupando già da tempo della questione dei ratti. Naturalmente noi ogni 4 settimane facciamo una ricognizione complessiva delle trappole che andiamo ad inserire sul territorio. Naturalmente trappole che nella maggior parte dei casi non le mettiamo visibili, perché, come è accaduto anche in giardino pubblico, qualcuno si diverte a distruggerle. Trieste, Francesca Terranova, TGR Friuli Venezia Giulia. La polizia di Trieste ha arrestato 5 persone nell'ambito delle indagini sull'accoltellamento di alcuni cittadini pakistani da parte di un gruppo di immigrati afghani. Questi ultimi, nella notte tra il 4 e il 5 agosto scorsi, al centrale Molo Audace, avevano chiesto alle vittime prestazioni sessuali. Al loro rifiuto li avevano feriti e rapinati. Il ministro delle imprese Adolfo Urso ha approvato la stipula di un accordo presentato da 2 società del gruppo Pittini, Ferriere Nord e Acciaierie di Verona, che prevede un investimento di oltre 53 milioni e mezzo di euro da investire in Friuli e in Veneto per ridurre l'impatto ambientale degli stabilimenti. Ferriere Nord di Osopo e Acciaierie di Verona, aziende siderurgiche del gruppo friulano Pittini, primo produttore italiano di acciai lunghi laminati a caldo destinati all'edilizia e all'industria meccanica, hanno presentato al Ministero delle Imprese del Made in Italy un progetto per il miglioramento delle performance ambientali dei loro stabilimenti. Il progetto, che prevede un programma di investimento di oltre 63 milioni di euro da realizzarsi in Friuli Venezia Giulia e Veneto, in questi giorni ha ottenuto il via libera del Ministero. Si tratta di un programma articolato in 5 progetti ambientali che si svilupperà negli stabilimenti di Osopo e Verona, specializzati nella produzione di tondo in barre e in rotoli, vergella, reti elettrosaldate e tralicci. Il Ministero, giudicando il programma di sviluppo proposto di particolare rilevanza strategica in relazione al contesto territoriale e al sistema produttivo interessato, sosterrà l'investimento con la concessione di oltre 20 milioni di euro di agevolazioni. La Regione Friuli Venezia Giulia, in considerazione dei riflessi positivi dell'accordo sull'innalzamento del livello di tutela ambientale del territorio, concederà 570 milioni di euro di agevolazioni per le iniziative da realizzare a Osopo. L'accordo sarà gestito da Invitalia per conto del Ministero delle Imprese e del Made in Italy. Udine, Armando Mucchino, TGR Friuli Venezia Giulia. Il tema del giorno per la politica nazionale sono le aperture di Forza Italia sul tema della cittadinanza italiana agli stranieri. In questo servizio vediamo come si articola la questione a livello regionale. Dopo le perplessità di Fedriga, l'apertura di Forza Italia. Il dibattito sul diritto di cittadinanza è vivo anche nel centrodestra regionale. I consiglieri azzurri Novelli e Cabibbo vedono con favore l'ipotesi di legare il diritto al compimento di un ciclo scolastico nel nostro paese per i ragazzi di seconda generazione, figli di genitori stranieri residenti, che oggi invece devono aspettare il compimento dei 18 anni prima di poter richiedere la cittadinanza. Secondo Novelli, sono giovani che studiano con i nostri figli e vivono e condividono la realtà di un paese che sentono loro. Cabibbo, dal canto suo, vede nello Ius Scholae un veicolo prezioso per abbattere muri ideologici e costruire ponti solidi e duraturi verso un orizzonte di civiltà e piena consapevolezza. La presa di posizione dei consiglieri azzurri dopo che Fedriga a mezzo stampa aveva spiegato che nel nostro paese non esiste una criticità da questo punto di vista, essendo l'Italia uno dei paesi europei che concede più cittadinanze. Inoltre Fedriga vede nella cittadinanza stessa la certificazione di una avvenuta integrazione, altrimenti, dice il governatore, si corre il rischio che venga concessa in modo improprio o che ci possano essere delle distorsioni. Parole commentate con durezza da Deborah Serracchiani. La deputata Dem dice che l'inverno demografico, con le sue conseguenze sul sistema previdenziale e produttivo del nostro paese, non si combatte con le ciarle sull'etnia latina di Vannacci. Invece di integrare i ragazzi di prima e seconda generazione per farne cittadini italiani a tutti gli effetti, la destra crea ghettizzazione, malessere sociale e insicurezza. In questo quadro, conclude Serracchiani, Fedriga dice che va bene così. Non è vero e lo sa. Andrea Vardani, GTGR Friuli Venezia Giulia. Siamo al tempo, cielo sereno su tutta la regione. Queste le temperature registrate alle 11. A Trieste 27 gradi, mare quasi calmo con temperatura di 27 gradi. A Gorizia 29 gradi e mezzo, a Udine Pordenone 28 e mezzo, a Tolmezzo 25 e mezzo, a Tarvisio 24, a Forni di Sopra 23 e mezzo, a Piancavallo 21, a Sappada 20 gradi e mezzo. Sul Monte Lussari 17, sul Monte Zoncolan 16 e mezzo, sulla costa a Lignano 27 e mezzo, a Grado 26 e mezzo, con temperatura del mare in entrambe le località di 26 gradi e mezzo. E ora sentiamo quali sono le previsioni per il weekend e la tendenza per la prossima settimana con Sergio Nordio dell'ARPA. Sulla regione abbiamo tempo stabile in prospettiva fino a gran parte della giornata di domenica. L'anticiclone in quota porta aria molto mite dall'Africa e favorirà anche il ristagno di umidità, quindi probabilmente avremo anche caldo piuttosto afoso sia nella giornata di sabato che domenica, con temperature massime in pianura intorno ai 32 gradi, qualcosetta in meno sulla costa per l'effetto delle brezze, anche se sono deboli. In serata di domenica arriva un fronte che valica le Alpi abbastanza rapidamente, porterà dei temporali sparsi, ma proprio in serata di domenica in montagna, soprattutto in Carnia e nel Tarvisiano, bassa la probabilità poi invece di temporali su pianura e costa, dove invece comincerà a soffiare bora moderata. E questo sarà un po' l'elemento di novità, a partire appunto dalla tarda serata di domenica fino ai primi giorni della prossima settimana, probabilmente fino a mercoledì, la presenza di bora moderata a tratti sostenuta, specie sulla costa, che porterà aria più secca e diciamo temperature che non caleranno molto, però con la presenza di minore umidità saranno un po' più sopportabili. Ultimo sabato da Bollino Nero, quello di domani, sulla rete di autostrade Alto Adriatico. Sarà una sorta di replica di quanto si è verificato sabato scorso con probabili code in ingresso alla barriera di Trieste-Lisert per il rientro dalle vacanze e in prossimità dell'uscita ai caselli delle località balneari per gli ultimi scampoli di esodo. Previsti 26.000 ingressi alla barriera dell'Isert, quasi 18.000 transiti in uscita alla Tisana, 16.000 in ingresso a Villesse e quasi 14.000 in uscita tra San Donà e Meolo. I flussi cominceranno ad aumentare progressivamente già dalla giornata di oggi. Stando alle previsioni, domenica dovrebbe essere invece una giornata più tranquilla. Tanti rientri dalle vacanze, ma anche tante le partenze last minute. Destagionalizzare per necessità, prenotare con largo anticipo, proprio per evitare il caro prezzi, e se bisogna spendere, tanto vale andare lontano. Sembrano essere queste le tendenze di scelta in agenzia viaggio per questo 2024. Poco, pochissimo, last minute, ci dice Vanessa Padovani, specializzata in tour culturali guidati, anche tematici, in giro per il mondo. Ci sono operatori che preferiscono lasciare camere invendute rispetto a mettere in offerta all'ultimo minuto una stanza, per non dover ripensare da zero ad una promozione in tempi stretti e non scontentare chi si era già organizzato per tempo, pagando magari di più. Rispetto agli anni passati si prenota con sempre più largo anticipo, ci conferma Cristian Corazza, titolare di un'altra agenzia di viaggi nel centro di Udine. A gennaio 24 c'è già chi aveva in mano un biglietto per il Capodanno 2025 o addirittura per la fine del 2025. Poca Italia non ha avuto gli esiti che speravamo, aggiunge Corazza, così come è stata venduta poco la Croazia. Il cliente sembra dire, se devo spendere a questo punto mi faccio il viaggione, continua Corazza. I prezzi appena oltre confine sono andati alle stelle, gli fa eco Padovani, unitamente però ad un innalzamento del livello dei servizi. Entrambe le agenzie hanno lavorato molto e bene sulle mete più lontane, Giappone, Estremo Oriente, Indocina, Africa Australe, Stati Uniti, Sud America. In tanti, i viaggiatori singoli, giovani, hanno scelto il tour organizzato, facendo gruppo con altre persone, un'opzione che, secondo Padovani, dà sicurezza e permette di non perdere tempo, ottimizzando ogni momento della vacanza. Altra parola d'ordine, destagionalizzazione. Sempre più mete fuori dal bel paese, mediterranee come Grecia o Egitto, luoghi in cui fa ancora caldo a fine settembre oppure ottobre e si può spuntare un prezzo vantaggioso. Udine, Lillo Montalto Monella, TGR Friuli Venezia Giulia. La stazione di Maniago del Soccorso Alpino ha rintracciato questa notte intorno alle 2.30 un gruppo di 11 forristi tedeschi il cui mancato rientro a San Daniele, previsto in serata, era stato denunciato al 112 da un loro connazionale. Il gruppo era andato a percorrere il torrente Cosa dalle grotte di Pradis e l'ultimo contatto risaliva alle 20.30 di ieri. La squadra forre del Soccorso Alpino ha ritrovato il gruppo intravedendone le luci nei pressi della diga del Tul, nelle vicinanze di Borgo Mulinars. Si è poi appreso che durante il percorso non erano riusciti a trovare trovare la giusta uscita dalla forra e si erano abbassati troppo, raggiungendo appunto la diga, prima di ritrovare autonomamente la strada giusta per il ritorno. Proseguono i lavori di riqualificazione della rete fognaria a Pordenone, un'imponente opera di salvaguardia ambientale affidata ad Idrogea per 5 milioni di euro e che interessa diversi tratti della città, da via Rivierasca fino a Borgo Casoni e vie limitrofe nel quartiere di Torre. Un maxi cantiere diviso in tre lotti che interesserà nel prossimo futuro altre vie della città. In queste settimane il cantiere si concentrerà sull'attraversamento pedonale posto alla fine di via Rivierasca, in prossimità della rotonda di Viale Martelli, e sulla posa dell'asfalto provvisorio che consentirà il transito del traffico veicolare durante i mesi di assestamento dell'infrastruttura fognaria. Le lavorazioni del quartiere di Torre lungo l'asse di via Borgo Casoni non stanno registrando intoppi e il cronoprogramma è rispettato, con la previsione di fini e lavori per la fine dell'anno. Idrogea confida di aprire il secondo sublotto di Torre Sud nei primi mesi del 2025. Nella prima metà di settembre è previsto un ulteriore aggiornamento tra l'ufficio viabilità del comune di Pordenone, la polizia locale di Idrogea, per valutare il prosieguo del cantiere e il suo impatto sulla viabilità della città. E ora andiamo a conoscere un altro atleta paralimpico in partenza per i Giochi di Parigi. Si tratta del triestino Marco Franck, 44 anni, del gruppo sportivo Francesco Ravalico di canottaggio dei Vigili del Fuoco. Sentiamolo. Marco Franck, classe 1980, atleta della società Ravalico del gruppo sportivo dei Vigili del Fuoco. Quali sono gli obiettivi di questa Paralimpiade? Stiamo andando per gradi. L'obiettivo primario è arrivare in finale. Poi vedremo un po' con gli altri avversari cosa riusciremo a fare. Per lei lo sport cosa rappresenta? Lo sport è uno stile di vita. Il canottaggio è la disciplina del canottaggio. Non mi stanco mai di dirlo che siamo come un'arte marziale, ma non picchiamo nessuno. È disciplina, è sforzarsi di raggiungere i propri limiti e disciplinare il corpo a fare allenamenti lunghi, stancanti, ma che permettono poi di avere un corpo che riesce a fare sforzi e cose inimmaginabili. Il canottaggio, dopo il mio incidente che mi ha fatto diventare paratleta, mi ha permesso di recuperare molto più velocemente. I fisioterapisti si sono stupiti della mia ripresa e mi ha permesso di compensare la mia disabilità in maniera che quasi non si veda. Con chi gareggerà? Gareggerò nel 4 con PR3, che è una specialità mista, cioè ci sono due uomini e due donne più un timoniere. I miei compagni di avventura sono Tommaso Schettino della canottieri Agnene di Roma e Greta Elisabeth Mutti della canottieri Olona e Carolina Foresti del circolo canottieri Savoia di Napoli, e in più abbiamo come timoniere Enrico D'Agnello del gruppo sportivo delle Femore, cioè della polizia. Lei è insegnante. Ai suoi allievi che si dovessero ritrovare nella sua situazione o che sono già nella sua situazione, consiglierebbe di fare sport? Assolutamente sì. Credo che lo sport ti insegni veramente a andare oltre i tuoi limiti. Tante volte una disabilità ti entra un vermetto nel cervello, ti mangia e ti dice no, non posso più, non ce la farò più. E bisogna reagire. Lo sport insegna questo. Trieste, Walter Scherck, TGR Friuli Venezia Giulia. La settecentesca villa Grande Nigo Sabatini di Pozzuolo del Friuli ospiterà il 31 agosto, il 1 e il 3 settembre l'allestimento di due atti unici della Cavalleria Rusticana di Mascagni e il Gianni Schicchi di Giacomo Puccini, prodotti da Opera Prima Vin con la direzione artistica del maestro Tiziano Duca nell'ambito del progetto Puccini 2024, Pozzuolo del Friuli, cittadella dell'opera. Ma sentiamo proprio Duca che introduce questo particolare allestimento delle due opere. L'opera in generale tratta di emozioni universali. Ci sono delle opere che sottolineano questi aspetti in maniera importante, altre con un obiettivo un pochettino diverso. Trovando in Cavalleria Rusticana degli elementi che si possono ritrovare in elementi rurali vissuti all'inizio del Novecento anche in una cittadina piccola come Pozzuolo del Friuli o nel Friuli in generale, in quanto l'attività rurale nei nostri paesi, l'attività agricola, era la base di un'attività sociale, di un'attività reale. Trasportare con questa produzione queste emozioni all'interno di un piccolo paese come Pozzuolo del Friuli e far rivivere le emozioni passate in secondo piano, diciamo, perché ormai della miseria degli anni venti non si parla più, dell'agricoltura degli anni venti non si parla più, e trovare ispirazione da questo elemento sociale per costruire un concetto di regia e costruire delle opere che possono andare bene solo per Pozzuolo del Friuli, interno di Pozzuolo del Friuli, è un'operazione alla quale quest'anno abbiamo tenuto in maniera molto particolare. Anche il personaggio di Gianni Schicchi è un personaggio che deriva dalla nostra cultura friulana, chiaramente ambientato nel 1300 dal canto trentesimo della Divina Commedia come personaggio. Abbiamo cercato di trasportare questo carattere, questo personaggio all'interno della nostra realtà friulana, e sarà un personaggio che, con tutte le sue mercanzie e le sue capacità suggestive, sarà il personaggio che collegherà la prima opera con la seconda. Lillo Montalto Monella, TGR, Friuli Venezia Giulia. Finisce qui questa edizione del giornale radio regionale, che è stata redatta e condotta in studio da Alessandra Zigaina e Daniele Lettigi. In regia, per la parte tecnica, Tommaso Vinoni. Ha collaborato in redazione Laura Sarasini. A tutti voi grazie per averci seguito e un buon proseguimento d'ascolto. Abbiamo trasmesso TGR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia.